Ti porria mai pur con parole sciolte, dicer del sangue e delle piaghe a pieno, chi ora vidi per narrar più volte. Ogni lingua per certo verria meno per lo nostro sermone e per la mente c'hanno tanto comprender poco seno. Se il saunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente per li troiani o per la lunga guerra che dell'anella fesi alte spoglie come Livio scrive che non erra con quella che sentio di colpi d'oglie per contastare a Roberto Guiscardo e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, laddove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove sans'arme vinse il vecchio Lardo. E qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, de quar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Giaveggia, per mezz'ul perderò lulla, com'io vidun così non si pertugia, rotto dal mento infin dove si frulla. Tra le gambe pendeva le minugia, l'accurata pareva il tristo sacco, che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le mani s'aperse il petto dicendo: vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo a lì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'accisma, si crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma. Quando avem volta la dolente strada, però che le ferite son richiuse prima ch'altri dinanzi li rivada. Ma tu chi sei che sullo scoglio muse? Forse per indugiar dire alla pena che è giudicata in sulle tue accuse? Né morte il giunse ancor, né colpa il mena, rispose il mio maestro, a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena. A me, che morto son, convien menarlo per lo inferno qua giù di giro in giro, e questo è ver, così come io ti parlo. Più fuor dicendo che quando l'udiro s'arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia obliando il martiro. Ordì a Fra Dolcin dunque che s'armi, tu che forse vedrai il sole in breve se li non vuol piuttosto seguitarmi. Sì, di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al noarese, ch'altrimenti acquistar non saria leve. Poi che l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse sta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Un altro che forata avea la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia, e non avea manco un'orecchia sola, ristato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna ch'era di fuor d'ogni parte vermiglia e disse: adunque colpa non condanna e cui io vidi in su terra latina, se troppa simiglianza non m'inganna, rimembriti di Pier da medicina se mai torni a vederlo dolce piano che da Vercelli a Marcabotti china, e fa saper a due miglior da Fano, a messer Guido e anche ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, gittati saran fuor di lor vasello e mazzerati presso alla cattolica per tradimento d'un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai sì gran fallo Nettuno, non da pirate, non da gente argolica. Quel traditor che vede pur colluno e tiè la terra, che tale qui meco vorrebbe rivedere esser digiuno, farà venirli a parlamento seco, poi farà sì ch'al vento di focara non sarà lor mestier voto né preco. E io a lui: dimostrami e dichiara, se vuo chi porti su di te novella, chi è colui dalla veduta amara. Allor pose la mano alla mascella d'un suo compagno e la bocca li aperse gridando: «Questi è esso e non favella!» Questi, scacciato, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre condanno l'attender sofferse. «Oh, quanto mi parea sbigottito, con la lingua tagliata nella strozza! Io che a dir fu così ardito! E un cavea l'una e l'altra mammozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderati anche del Mosca, che disse lasso capoà cosa fatta, che fu il malseme per la gente tosca. E io gli aggiunsi: è morte di tua schiatta, perché lì, accumulando duol con duolo, s'ingio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo e vidi cosa ch'io avrei paura, senza più prova di contarla solo. Se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uom francheggia sotto l'asbergo del sentirsi pura. Io vidi certo, e ancor par ch'io il veggia, un busto senza capo andarsi come andava gli altri della trista greggia, e il capo tronco tenea per le chiome, peso il con mano a guisa di lanterna, e quel mirava noi e dicea: oh me! Disse, faceva a se stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due, come esser può cui sa che si governa. Quando diritto al piede del ponte fue, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue che fuoro: or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi s'alcuna è grande come questa, e perché tu di me novella porti, sappi chi son Beltran dal Borgno, quelli che diede al re giovane mai conforti. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli, a chi dal fel non fe più trazione, e di David come alfaci punzelli. Perch'io parti così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo troncone, così soserva in me lo contrapasso.